e mi allevia un po' il dolore, capito? E io lo stesso ho quella fascia elastica, però è rigida dietro, no? E molte volte me la devo mettere a chi mi va a zimare la china pure a me. Io mi ce l'avevo qui stamattina, sino a stamattina, però ho detto, ma oggi non me ne pongo, c'è di buttare un garage, ma ce l'ha portata di mano. E poi mi avevo dato un pulucchio delle spalle, fa un pezzo di sopra, no? Anche se non mi ci butto la roba pure a me. E infatti quando mi siedo nella sedia sto sempre con le spalle appoggiate alla spalliera della sedia. Se mi curvo poco a poco mi va di più male, invece appoggiato dritto non mi duri. Sì, hai già compreso che vita che stiamo passando. E cosa vuoi fare? Oh yeah, per carità, guarda. Ma carigani, se io mi domando e dico tu cazzo, ma ti ho fatto un culo tutta la vita a pensare a un paio d'anni fa, tra valieni, come un macco, buco di sabato e di domenica, casa, lavoro, campagna, lavoro, casa e campagna. Cazzo, qualche volta che sono andato in giro così, a mare, pochi volti, cazzo e mi valeno in tutta a me le maranne, a che non faccio un cazzo non le vede nulla. Per forza, a chi non ha fatto mai un cazzo in vita sua, io ero credo che è Bedusano. Cazzo, io sono bene da 14 anni, dall'età di 14 anni, come sei finito? La seconda media me ne sono andata a travagliare, poi la terza media me l'aveva pigliata serale. Ma allora ero andata a travagliare, cazzo. Boh! E la stessa cosa ti dico, grazie. La minore sempre della Valiente, cazzo, ha potuto studiare come ti mi ha detto babbo, gatta, la romanca di Sadduzano, e io dico se avevi studiato e avevi fatto un travaglio da ufficio, cosa non riesci a usare? Ma quando sei giovane non vuoi bene, se ne hai compreso, no, non pensi, non vuoi bene se queste cose. Hanno ragione che sono anziani, che dicono, continua a tirare ancora, non vedete ti pigliare in giro, altro che pigliare in giro, già ti ne avvisavi tu, quando diventi più umano, e infatti a me ne sono capizzato io. Vabbè, io già ho sempre travagliato, però con tutto che ho lavorato non puoi andare più bene, di chi sto andando. Boh! E dico, ma stessa cosa, ma vogliamelo di via di ciudia. Si incazzava che io mi piacia nel ritina e mi piacia andare a travagliare, a studiare, a che l'intelligenza va a studiare alla più. E che non mi piacia. Non mi piace più a travagliare, compreso. E paghi sui risultati di Soghissi. Vabbè. No, a me babbo mi diceva, non vuoi andare più ancora? No, andare ancora, tu da domani andare a travagliare. Infatti, il primo travaglio me l'aveva buttato Edo. A Serra Secca, da farina, carrozziere e verniciatore. Sono fuggito, in giro di 4 mesi me ne sono andato ed ero entrato pompista all'AGP della Budivugli e c'ero rimasto 5 anni lì e poi me ne ero andato volontario in marina e me ne sono fuggito pure dai Ivi. Torno dai Ivi e mi ha chiamato l'esercito a obbligo di legge. E la miglia d'avona. Vabbè, però lì mi avevo preso la patente e poi mi ho fatto la conversione. Quando ho finito i chili mi hanno imbrigato in oro tutti quanti a rimanere, a mettere la ferma. E non sai quanto me ne sono pentito. 2 denti mi hanno fatto da bui. E mi ne sono pentito un bene, Natalì, ma un bene a chi è basi la pacchia. non consumavi nulla, ammazzavi di là, a chi dice prende in visa, veniva in permesso, licenza e premio, certo, mangiavo gratis, a sé che me ne sono ben tutto, non è un'idea. Io credo, uno quando è giovane non ribiati, ranaia, chi c'è, chi d'altro, però da voi, alla fine si riconti, uno era stato vero, vero. No, io me ne sono andata a chiamare con vinto acqua, poi il maiolo, cosa cazzo, fuori è diversa la vita. E me ne convinto, se no chi ti mi viene convinto me? Era un colonnello sassareggio, il maresciallo era sassareggio, il capitano era Mattese. E mi diceva, firma grazie a chi no che c'hai lei a vero. Tu la vaffa vedi così, però da poi gli altri ne abbizzi, chi no che... non stai vera, ma io ti occupo, però faccio gli altri e me ne so che dovuto andare. E allora, e noi gli sbaglio, cazzo, a chi sei impiegato dello Stato, sì, quando sei così? Era una macchiasi poi con tutti i sì, che erano i sassaresi. Cazzo, pensa un colonnello era sassareso, eh? Ehi, lì ha parlato il fuoco, la sai quanto mi furiano i pezzi, cazzo, e mica ne ho combinato quando io richiedimi, a chi rubio ero sempre al corpo di guardia, in cella di punizione, a chi ogni altro ne combinavo qualche una, con la campagnola me ne sono andato a caccia di lepri, dentro un capo sportivo, fenere gincane. Cazzo, ma deve essere un vizio di tutti i sassaresi chi sa furarsi nella campagna ora. Ehi, e anche con il 128 allora avevano 10 macchine, no, il 124. E la sera gli siani le leppari, no, siccome ti vedano un braccio verde. E andati a una capo sportiva a bruccare, a mangiarsi l'elba. E te li bisognava con la macchina, con la campagna ora. Cazzo, qualcuno che conosceva gli hanno ammazzato uno o due di questi leppari? Salendo in campagna prima, tanti anni fa, sai quanto vennero, ne hanno giubilato il burculo con la 127 che c'avevo. La bagliavo, si bloccava, li passava in atto, suonavo, e si chiudeva, intendi tu, mi fa venire a cuglia, e si passava a campagna. ma prima ce n'erano molte, adesso che è tutto abitato non c'è più nulla, le macchine, e se no non verranno a spara, c'era sempre pieno. Da quando hanno costruito tutte quelle case, come anche i funghi sono usciti, ci hanno mangiato fino alla brezza. Grazie, mi ne capelli la risa. Io se no non vera ciocca, giochita, era pieno qua, ti stancavi a curia di sta accogliendo, se ne devi andare a chiedere molto. E mi dava più in terra, i ghibi, pacenni. Adesso non ce n'è più, manco una ce n'è. E poi frutto ci hanno mangiato vista la breda, io lo grido. Io non lo di acqua ora, cazzo, ne vedi poco, niente. Facendo con il carrello viotto, da ben assavane, con il carrello carico di breda, il burro, ci stanno buttando tutto. Non è possibile, no? Cazzo, prima a casa loro che pigliano il darreno, le imburicheggiano se si buttano i darreni, il burro. Roba matta qua. Cazzo, ma pigliarsi ne a breda, burro. Le brede, sì, la sai quanto tanta gente sparava a chi vede a noi, a chi vede nel rock e burumettimi, curumannimi, in 7-8 si ricaricavano e se ce le buttavano, pietre belle fatte col tempo. E per abbellire i muri, le case servono, già lo so. E nei giardini, capito, pure se ti vai la piscina, metti tutti i cosi, capito? A Sintino va a dire così a pigliarsi la breda di Sintino. Ma danno ne bilibia che si ti ferma, la gatta è sabrita non ne ci bida carina, già lo so già, a chi io da giovanotto era per andare a burro io una volta a caricare una macchina, tutta piena di cibriti, la gatta siamo arrivati da Sassari. Che ladri che siamo. Ma allora di pigliare non vedo che salire ancora, compreso. Pure all'argentiera era mandato, non mi ammetto cosa era mandato a pigliare. E Gianluca, grazie anche. E poi chi se ne capende la risa. Per carità. Comunque, l'unico sbaglio mio, anche dalla marina non me ne devo andare, i chibi me ne sono andati io. Non ho riconfermato la ferma perché ero buttiglioso allora. Siccome io avevo fatto la domanda per essere imbarcato in quella nave velina, però loro mi hanno detto dopo che fai il corso, 3 mesi fai il corso di armiere, una volta che sei diplomato al corso ti imbarchiamo, e io vabbè, e ci bacia un anno e nulla, e andando sempre in direzione Ivi a un capitano. Ma la domanda mia di trasferimento ho presa in considerazione là. Sì, per il momento rimani dove sei, Cambù, poi già te lo diciamo noi, vabbè. Arrivi a 2 anni, ha detto, no, chi mi vuole, tutti mi vuole la Gainoghi. E allora me ne sono andato. Il Gaio Duilio ti volevi imbarcare così? La scuola, che nave scuola è quella, capito? Lì ti finisci proprio, fai tutto quello che c'è da fare, però sulla nave da vela, però c'è tutto, computer, ti impari tutto lì su praticamente. C'è anche a terra la scuola, ma lì è più bello perché gira il mondo, ma è compresa. E fa di una voglia ogni porto. Infatti, quando la vene gli sanavi in tutto il mondo rimanono incantati, rimanono di canta e bella. L'ho vista da poco al televisore, normalmente un irani. Ci sono anche donne lì imbarcate adesso, prima no, adesso pure un femmine, hai capito? Era bello lì, e poi conoscevo gente in pensione che erano marinai, che me l'avevano consigliato, uno abitava lì punti, che era andato in pensione e viveva lì alle punti. E mi aveva detto, Ciccio era baggiano, baro, non si è mai coiuvato. Però dice, guarda, wow, un'esperienza del genere nella vita, te auguro. E dice, magari, dice, ho visto di tutto e di più, e anche tantissimi posti, bellissimi. E vabbè, ci c'è molto che sono. Però una via Medina, un bel di va via. Infatti, in chi la accumuleggi pure, la cosa, poi si atterra solo quando attracca la nave, chiaro dopo, dell'esperienza, adesso in più ci sono anche le donne imbarcate, quindi non hai problemi di scendere a terra. C'è anche quella adesso di buono, l'ho visto. E ve ne so pure in gamba, anche nella polizia, non hai visto quanto ce ne sono? Oh, ragazze carine. L'altro giorno c'era il giuramento della polizia, al televisore, non te l'hai visto? Io me l'ho visto, Trumasano qui, un bel ragazzo. Sei otti venivano i 2 o 3, ma le altre erano tutte belle ragazze. E io da giovane mi ne ero di intendi una di chi si burizzotti femmini, ma bella, una biondina bella carina era, ragazza, e me la stavo tentando, veramente carina era. Ce ne sono parecchie, ce ne sono, vabbè. Però per dire che non si può più turrare da ridere, se no io me l'ho rimasto a vino. Oh, capito, purtroppo è così. Asco, mi aspetto 5 minuti e rientro subito. Ehi, già sono in querizio, dai, non c'è problema. Già non scappo. Ehi, già ce l'ho acceso. Ehi, Natali. Ehi, già sono qui. Ehi, stavo sciacquando il rullino. E il pennellino, il pennello. E mia moglie si è imbianchinato nel terrazzo stamattina. Ed era la moglie la dita, la bassa di bocci. Ora rosola ci stava giù scioccato. E ci ha fatto il suo poco di dita e rimascia. Ma che sapo, bossi qui. Infatti. Da quando sono uscito le fannie dalla stavolta ho fatto tutto l'ingresso e oggi si è voluto fare un derrato. Ma vai, l'ha allungato il travaglio, ha scritto, da tutti i pigei, guarda lì si va in camera da letto. E faccio un maniare. E di la paura tu. Ehi, già hai imparato a bailare a me a giudice. Oramai a destra. Ma questa si dà il movimento. A me mi viene a farlo. Infatti. Aspetta, già hai imparato a allora. Però ti devo lasciare io. Grazie, perché devo fare un qualcosa qui. Al limite ci sentiamo più tardi, se ci sei. Tanto deve entrare anche Giuseppe, Luca non si è più sentito. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi al limite. Già lo lascio accese, intanto ne approfitto a farmi la barba. A più tardi. Ciao, ciao, grazie. Ciao Luca, se sei in ascolto. Alle prossime. Ciao Brizzoli! Chi sei? Chi sei? Da cosa parte il booster? Ciao, sto facendo cosa adesso? Alla prossima! Ciao, anche io, grazie, sto aspettando. Ciao, ciao. Che è vero? Attenzione, briciola, briciola, briciola. Il tagliere. Ah, il tagliere c'è cosa? Il tagliere c'è. Andiamo. E cambiamo, su. Quando la sera potrebbe essere attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Dega. Chi è? Io sono, e tu chi sei? Buffetto. Io sono la barba. Io mi faccio lo shampoo. Mi ho tagliato anche i capelli. Bravo, buffo, io sei diventato un giovanotto. E allora? Al vostro barba, le vedi? Che bella di... Beh, Iago, facciamo un po' che non ti sentivo. Con che apparecchio stai uscendo? L'ultimo che avevo comprato, il nuovo. Il CT3 7009, mi pare. Ah, il CRT. Il 7009. Aveva da un bel fermo. L'ho acceso da ieri, poi stamattina, sempre acceso. Stavo parlando con Natalino, poco fa, Luca Flippe, però entrano più tardi che stanno facendo cosa. E gli ho detto, va bene, approfitta, fammi la barba. E lì bene, e allora mi devo fare lo shampoo e anche finito. Hai fatto bene, grazie. Se non mi messi più. Lo shampoo me lo devo fare perché ci rimangono in testa sempre i capelli, quelli corti, capito? Se no quando mi gocco imbrutto tutta la vetra. Lo faccio con lo shampoo veloce e sono cappuccio. Ehi, ehi, la roba l'ho fatta poco fa, la doccia. Mi ho fatto shampoo e tutto. La barba però me la devo fare. No, la barba prima mi ho fatto. No, adesso mi hanno fatto le mani. Cazzo, mica so con carne e cantone. Cazzo con burrito. Però i capelli me li devo lavare perché ci rimangono quei capelli corti sulla testa. Infatti se questo legge ne varano. E la Maserati sempre ce l'hai? La? La Maserati. E allora, in garage, non mi sta a caricare, grande, due chiedi va, c'è la carica, ma siccome la dovevo prendere, invece poi non mi ti diavo e non ha giubilato, e l'ho lasciata a caricare 4 ore, sono sceso il pomeriggio, l'ho staccata, ma è la carica. Però se rimane molto tempo ferma, la devi riattaccare per scaldare bene le batterie, se no si rovinano. E poi puoi uscire, adesso posso uscire volendo, anche all'altra settimana, ma prima era da un bel ferma. Ma che autonomia c'ha? Quanto durano le cariche delle batterie? Faccio 70 km con le batterie, qualche cosa di più anche, là, già li fa. Ma tu tanto la sedessi in città, non è che vai fuori? No, volendo scendo a Plattamona, sono andato alle Bunti, e la mia figliola che abita più lontano, quasi vicino a Ottava. Già ne fai strada, già. E posato in due burumi, io e mia moglie sta dietro, c'è un sedile dietro. Cazzo, che si butti pure in giro? Vabbè, se non puoi usare la macchina, grazie a cosa vuoi fare? No, la macchina già la butto guidare, già viaggio la patente. No, ma non ci sono riandato più a rinnovarla, che intanto cosa me ne voglio? Ma a ogni aggiudanda, a pagare bulle, assicurazioni, bagosi. Annuncia e poi gas a pure benzina. Con chi ce lo pago? Né bullo, né assicurazione, né benzina. Ma la ricarica è 25 centesimi, nelle batterie me la carico in garage. Ma... Vabbè, ma non te l'avevano presa perché ti avevano dato il 100% di validità, io mi ricordavo così. No, sono andata e mi ha detto, mi devi fare il certificato nuovo del cardiologo del pneumologo, perché questi non valgono più, sono scaduti il termine. E la giudizio mi ha fatto in casa, ha detto scusi, i tempi della telefono oggi mi danno l'appuntamento. Cosa con la vivo, io adesso riprendo l'appuntamento, me lo danno fra un anno e io fra un anno quando ho quel foglio devo rifare quello dell'oculista, quello del cuore e ancora vivo. ore devo fare sui tappagamenti di visti, se me li anticipare i soldi, vado, li faccio e li porto. Scusi. Grazie a voi, li vogliono massimo 2 anni devono avere. A parte chi vuole entrare? Aveva nessuno, pensava. Ma la poi mi ha fatto incazzare, mi ha pigliato un prase, ma che me ne sono cominciato incazzato dalla cadria. Cazzo, già era assistente di comunità e lui, fa passare la visita, ma rinnovo della patente. Cazzo, ha detto vabbè, quando li faccio, mi rifaccio il foglio per circolare, non glielo posso più fare quello, e allora se ne vada a fanculo la giudizio, lei è la patente. Mi ha sbagliato tutto e me ne sono andato. Cazzo, e chi ti maestro lo lasci perdere se campo che quello è tutto suonato e venga quando gli piace, gli rifà. Ah, dice, ma non me ne ha putti nulla, me la stavo rinnovando, stato per rinnovare. C'è una gente che se mi vuole buttare, vado a buttare la macchina, però me ne ha putti, la macchina l'ho data a mia figlia, nuova nuova, la giovinità che stanno di baga. Però quando devo andare a qualche posto viene, lei mi prende, mi accompagna, capito? Anche se voglio andare al ghetto, mi porta dappertutto, ma io non aggiungo ad andare in giro, cosa cazzo andare a fare? Con tutti i miei zeni che mi gioco in bottegna, che andate in giro a fare. Vabbè, grazie. Se c'è il sole già fa bene, ma magari non almeno vai a Plattamona e domani lo vedremo a te. Già ci vado lo stesso qualche giorno al mare con mia figlia, perché non sono andato anche l'anno scorso. Mi sono andato a Plattamona, alla rotonda, in quel bar che c'è lì, ma vi avvido una birretta e un gelato di quelli al cono. Siamo stati tutta la sera, i bassi geni, buci nella torretta, e poi mi sono condurato a casa. Già fa bene, quando c'è bel tempo, già fa bene il sole. Noi che sposti assai bene, specialmente se sei diabetico, a me me l'ha detto, sì, ci vai al mare, ma vai, da adesso in poi puoi andare, senza prendere quel caldo forte. No, io sono diabetico, eppure ci vado al mare, sto anche tutto il giorno che mi passi nulla. Ma io vado a Semarani, vado pure un ossigeno appresso andando in spiaggia. Non lo sapevo io, grazie. C'è l'ossigeno portatile. C'ho anche quello portatile che dura 6 ore. Però ne so che ci sono da ripilare i laghi da abbassata, mi era all'ospedale, mi sono sentito di nuovo male, non riuscivo a respirare. Ma ne ha avuto al cuore le coronarie, i polsimari, la cassa toracica, buccia mare, ma qua è delusato. E adesso lo suggerino, lo devo tenere tutta la lì e tutta la notte. Casino. Dunque, poco di fa faccio, non è che posso uscire e stammi in tutta la in carriera. Quel portatile dura 6 ore, dopo 6 ore lo devi ricaricare, per portare a casa devo venire a caricarlo. Perché sei in grado di caricarlo tu? Dal bombolone grande, in casa c'è il bombolone grande. Ho capito, c'è quello fisso là. C'ho il bombolone grande che quando sta per terminare il giorno prima telefono e me lo portano l'indomani mattina. E io quello da ricaricabile, c'è una valvola nelle voltappo, prendo quello piccolino, lo metto sopra l'incasso e me lo carica, capito? Una volta che è carico lo senti che sente, sembra bollendo. Quando è pieno, poi è pesante. E nella levo metto di nuovo il coprivalvola e niente, posso usare quello. Ma è pesante, mica quando è pieno, non è che lì zì, infatti me lo pongo in quel carrello della spesa, dentro lì. Ho visto anche una signora l'altro giorno che è venuta al CAF e ci aveva questo carrellino con l'ossigeno, infatti l'abbiamo fatto passare prima. Noi qualsiasi posto che vai ti devi venire a passare qua prima, pure se vai alle poste, in banca, dove ti piace. Se sono autorizzato a farti passare per prima, capito? Vabbè, pazienza. Dunque, molte volte me lo prendo così, a mano, o se no me la mantiene mia moglie e camminiamo. Sì, non ne mancava, a me mi hanno operato la gamba, mi hanno messo la protesi, grazie. Oh, questa è per quella la gamba là, quel piede là, mi ha messo male. Ah, il piede già mi è guarito, grazie a Dio me l'ha guarito l'amica, me l'ha guarito con loro con la Vale. Al manivizio 50 medici non sono stati capaci a farmelo guarire. Vabbè. Quello lì già è guarito. Il femore, che mi hanno operato al femore, che era consumato, e dolori dell'altro mondo, alla fine mi sono fatto operare. Se ci voleva, ci voleva. No, ma è abbastanza, siccome non riuscivo più a respirare. Non era ai polmoni, ma è anche dalle coronarie del cuore, capito? Mi si accelera tutto e mi stava chiudendo le valvole, boh, non so cosa. E allora va, devo portare sempre l'ossigeno. Per la rottura, no? Perché io gli ho detto, io non mi sentivo niente, di giorno stavo bene, anzi, giù stavo pure mia moglie, in casa, se sono andati a travagliare, però non me ne veniva a fanno come se mi giunto i figli all'ospedale, no? Vi ho detto. E non riuscivo neanche più a respirare. E niente, mi è venuto tutto a un colpo, così mi è venuto. Perché dalle coronarie del cuore, adesso non mi ricordo come te che mi ha detto, siccome mi ha detto tu non te ne accorgi, però anche se sembrava che non c'avevi niente, il cuore stava lavorando, ma stava lavorando male, capito? Perché non c'aveva l'ossigeno abbondante che deve avere, capito? Tu, maestro, tu non te ne accorgi, no, questa malattia non te ne accorgi, però quando è così e non c'è l'ossigeno, sta lavorando male il cuore, si farà un infarto, me ne sono giunti 3 infarti, anche un magrebo, 2-3 buchi, e gli c'erano 4. Ah, 3 infarti ti sono venuti anche. E allora, se c'ho quei 3 ci da ripilare, c'ho così gasa oramai. Oh, via, ma carità. E tu regolati anche con la roba da mangiare, grazie, che tu sei di buona forchetta e magari quello non ti fa tanto bene mangiare molto. Ma se ne sono scesa, lo sai quanto pesa adesso? 66 kg, da 80 kg che bisavo, 78, 79, 80 sempre, ultimamente. Allora peso 66, 65. Cazzo, mi rifarà la roba. Purtroppo, grazie, sa vita e gusta. Quando vai in pensione poi ti vengono tutti gli acciacchi. Ma a me mi sono giunti tutti gli acciacchi dall'anno, mi è giunto al suo cazzo di diabete. A voi. E allora, a chi prima va via solo il morbo del croco, la retrocolite ulcerosa, a parte che ero stato operato agli occhi delle cataratte, ma chi su gli era abbassato, gli avevo curumatese, anche se di notte non ci vedo, però di giorno già ci vedo, capito? E poi mi sono giunti tutti gli altri maranni. Vabbè, mi lavo la testa, sennò da bere freddo. Vabbè, grazie, là, ci sentiamo, là, stammi bene. Fai la bravo. Già lo lascio acceso, che deve rientrare Natalino e anche Luca dopo, quando vieni. Ok, se puoi entrare dopo già li senti. Grazie, ci sentiamo, vai. Buona lavata di testa. Dopo, ciao. Ciao, grazie. Attenzione. Chi è Battagliù? Buonasera Gianni. Qui, Giuseppe. KK. Emi, sono entrato, non c'era nessuno più entrato, Graziano. Ci siamo fatti una chiacchierata, va. Sì, già va bene, ogni tanto scambiare 2 chiacchiere. Adesso sei entrato al lavoro, Giuseppe. Ciao, Giuseppe. Ciao, Lucchetto. Ciao, amico mio, ciao Gianni, Ciao Luca, tutto ok, come va? Sì, già, sei un po' di febbre oggi, stasera. Poi la tachipia mi è scesa, facendo a posto. Casino, è un casino. Giuseppe, fai passaggio, vediamo un po' come arrivi qua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Scusate, avevo l'antenna all'interno della casa, 5, sì, ma arrivi bene di radio. KK, adesso devo fare una domanda a Gianni per l'antenna delle camper. Fai, Giuseppe. Me ne serve una piccola già, non di quelle lunghe. È piccola, io ho ordinato quella lì dalla Germania, però a me me l'hanno ordinata, dai. Ce n'è una che è molto, diciamo, molto buona come antenna, ti sento tutti bene, ed è 1,60 m però. No, non va bene, perché a me serve una tipo la Minox, che oltretutto chiama a pesolo e non ha più. Allora vai da Fusaro e prendi la Turbo, quella piccola. La Mini Turbo, chiedi la Mini Turbo. Domani provo a avvicinarmi, domattina vediamo un po'. Scrivito Mini Turbo, la piccola della Turbo 2001, quella piccolina, che va bene lo stesso, ti sentono con due segnali in meno, io l'ho già provate tutti e due. Adesso ci passo domattina, perché l'attacco rimane in linea della mansarda dei camper e non va bene quella lunga. Ho capito. Perché sua sta mettendo? No, c'è già quella cavolo di basetta nel parafango. Ah, ho capito. Avanti Luca, che prendo un foglio di carta. Io sto per uscire, dai, sono andato a salutarvi. Ti ho sentito Giuseppe, anche a Gianni ovviamente, dai. Chiudo e vado. Ci sentiamo un altro momento. Ciao Gianni, ciao Giuseppe, un po' di seguimento. A cantare stai andando? No, se riesco un po', cioè la testa chiusa. Ho capito. No, io sono tornato una mezz'oretta fa, ero in giro, poi sono andato da Media World a comprare un paio di cuffie per cantare, e ho preso un paio di cuffie belle, professionali, si sente benissimo. Molto? Sì, le ho pagate sulle 50 euro. Ah, discrete, là, un paio di cuffie buone, costano 200-300 euro. Ma non bene comunque, già anche io compro cuffie per karaoke, perché c'ho la scheda audio, c'ho due ingressi, perché il computer questo che c'ho adesso ha un ingresso solo. E vanno bene gli auricolari che ti fanno da ascolto, e in più puoi anche parlare volendo, capito? Poi c'è una scheda, no, a due ingressi. Infatti queste cuffie che ho adesso sono mezzo rotte, da Qui Live, un po' così sono andate, 25 euro l'avevo pagato, 20 euro se non mi ricordo, ma sono tante volte riaggiustate, cazzo, uomini di volte, mi si staccava il filo, allora lo aprivo, lo saldavo di nuovo, lo spinotto lo stesso, se uomini di volte l'ho stracciato, allora l'ho rifatta a nuovo, più volte, però sono arrivato che, cioè, sono da buttare. No, io questo che ho preso si sente molto bene, e anche quando canti la voce limpida proprio va bene, vanno molto bene e io sono contento, là. Non c'è bisogno di spendere tanti soldi, perché poi in effetti canti dal telefono e non è che puoi avere grosse pretese, però si sente molto bene, ti assicuro che c'ha dei bassi allucinanti. Beh, immagino, la buona, già, ho sempre un antibiotico. Scappo, vediamo, ora se devo pure sette dopo sarà difficile, a me già sei gara, voglio uscire un po' a svagarmi, capito? Ciao già, ciao Giuseppe. Ciao, avanti Giuseppe. Ciao, ci sentiamo, buona serata, ciao. Comunque Giuseppe si è limitato, le antenne più corte sono e meno prendono, a meno che tu l'antenna la usi quando sei in carovana con gli altri per parlare uno dietro l'altro, perché se no quelle più piccole dove ci sono ostacoli senti meno di quelle grandi, eccetera eccetera, devi calcolare quello. Lo so Gianni, però non ci sta. Allora guarda, la Mini Turbo è l'unica che va bene come antenna, ti dà due segnali in meno della Turbo 2001, è della stesso attacco, Turbo 2001, solo che è più corta, dai. Ma insieme all'antenna anche l'attacco mi danno? Certo. Anche il cavo? Sì, tutto, tranne il PL che tu devi comprare. Adesso me lo segno, aspetti, PL. Sì, ti danno 4 metri e mezzo di cavo è tutto attaccato, capito? Tutto attaccato all'attacco. Tu non fai altro che svizzare, metterlo. Occhio come la metti, perché deve fare massa bella. Sì, magari poi te lo faccio vedere il giorno che la sto piazzando. Via. C'è una brugolina che tu la devi mettere sotto di modo che faccia massa e poi mettere il bulloncino. Ok, adesso me l'ho segnata, mini turbo. Via, chiamala Fusaro. Oh, se non ce la fai più. Vabbè. Perché allora, se ce l'ha te la metti da parte, capito? Non c'ho manco numero. Lo sai cosa fai? Vai su Google e scrivi Fusaro elettronica e ti dà il numero. Aspetta che ci provo. Cava, cava. Un attimo già che sta controllando. Via. Gianni? Oh? Sì, ce l'hanno. Ce li ha di tre colori. Capo. La blu è la migliore, ce n'è una blu, una arancione e poi una gialla. La blu è la migliore secondo me. Allora, ecco, ce n'è una celestina, una bianca e una tipo la bandiera italiana, bianca, rossa, verde. Vedi tu, dai, come ti piace a te la prima. Ma tanto cambia solo il colore, basta, tutto il resto va bene. Sì, infatti. Adesso, detto che apre alle 9:30, domani mi avvicino e vediamo un po'. Via. Perché quella lì è una di quelle che vanno meglio, capito? Tutte le buone altre che non servono a nulla, ce ne sono corte così ma non vanno bene. E poi c'è quella che ho ordinato io dalla Germania, quella lì è un burro e costa anche poco, costa sulle 32 euro. Infatti, io ce l'ho una qua, però è lunga, ma non va bene perché la devo mettere storta. Allora. Ti conviene prendere quella lì che è corta, sai tu quando vai senti uno dietro l'altro, no? Sì, ma a parte quello, ma è anche con la, io ce l'avevo nell'altro camper, la PLC Minox, che prendeva abbastanza bene. Cappa. Ma cosa gli hai fatto fare? Qualche piastra tu? No, per il giorno che capita, che sei libero, vieni con me e te lo faccio vedere, da parte del stabilimento il camper. Ah, ce l'hai lì dove lavori? Via. E come ti faccio vedere dov'è? È dalla parte del passeggero attaccata di fianco nel parafango. Va bene, dai. Sì, l'ho visto già un altro camper così, messo nel parafango. Ma non si può accedere perché c'è il rivestimento dietro, così è. No, non è il rivestimento, è proprio camper, non si arriva da nessuna parte. E come fai a metterlo? Devo togliere solo 4-6 bulloncini e sfilo il parafango. Ah, ecco, da lì ce la fai, ho capito. Purtroppo bisogna fare così, a meno che la metti da qualche altra parte, ti fai una piastra e gliela metti sul paraurti. Il paraurti in plastica ce l'ha o in ferro? No, è tutto in plastica. Cazzo. Manco un selvaggio, allora il camper è un problema sempre. Infatti. Eugenio, puoi dire, nel camper gliel'hanno dato già con l'antenna del baracchino, capito? Il camper, già piazzato e tutto quanto, non ha fatto altro che attaccare il baracchino e basta, tutto, c'era già tutto l'impianto fatto. Quando è fatto dalla fabbrica passeranno un cavo di massa che va direttamente al telaio. Loro lo sanno come fare. E va bene lì con l'antenna, perché io lo sento bene. E dice che è piccola, che è piccolina. Però va bene, quello di genere è un camper enorme, si è comprato un camper, ne ha cambiato mi pare due o tre. Questo che ha comprato adesso è veramente bello. Ce ne sono belli, ti sto dicendo, e va bene. Trapassa al portatore, si è illuminato per queste cose qua. Che vede un bel. Ma è caro. Quella seconda mano sì, vende cari. E c'è Campi adesso a fianco al ricevimento merci di coso, di motoconvenienza sulla 131. Oh, e ci sono lì? Sì, c'è un piazzale quattro volte quello di Trapasso. Bisogna anche intendersene, Giuseppe, se uno lo prende a seconda mano e magari non c'ha tutte le attrezzature che ci vogliono. Se tu non te ne intendi, non è che vai a prenderlo da solo, devi andare con una persona che non sappia fare. E la mia compagna lo voleva prendere il camper. Ma guarda, anche mia moglie prima, no, no, no, mamma mia, cosa? Allora non se ne vuol farà. E lo so, perché magari sono spese, ci pensi, capito? Però una volta che ce l'hai, giri, capito, vedi le cose, cambi idea. Ma il bello è che stai anche in mezzo alla gente, fai un sacco di amicizie, e poi i camperisti oramai sono peggio dei camionisti. Sì, ti fa socializzare molto. Io ho questa coppia di amici che praticamente ci hanno dovuto comprare la casa e ci hanno dovuto vendere il camper, ma stanno ancora piangendo, perché ha detto che solo alzarsi la mattina e vedersi il mare di fronte era una bellezza. Lui dice, quando mangiavamo facevamo tavolate di 20-30 persone, e chi metteva una cosa e chi metteva l'altra, mangiavamo tutti insieme, facevamo i giochi, insomma tutte queste cose gli mancano. E purtroppo l'ha dovuto vedere, perché ha comprato la casa, per pagarsi la casa ci ha venuto il capo. Lo so, funziona così. Io piano piano, questo è il... aspetta, faccio il calcolo. No, ecco, questo è il quinto. Il quinto camper? Papà. Ma gli altri li hai presi a seconda mano? Io ho iniziato da quello che mi ha dato mio cugino, perché se l'ha cambiato e mi ha tirato a Genova con l'inganno. K-K. E non lo volevo, me ne stavo andando, mi ha dovuto inseguire, ecco, ma ho imbarcato lì a Genova di malumore. Yes. E poi hai comprato sempre il nuovo oppure seconda mano? No, ho preso poi il mobile vetta di seconda mano, e poi ho preso il roller team, e poi ho preso il Mercedes, sempre il roller team, e adesso è su Ducato, però questo è un Adria. K. E questo è più, il più grande che ha avuto, o ne ha avuto più grande? No, io il sempre 7 metri. Già, andava. Sì, va bene, hai lo spazio per muoverti. E poi siete solo in tre, non è che siete in tanti, dai. Si va tranquillamente. Tanto poi tu non fai grosse, diciamo, vai venerdì, sabato e domenica, e poi la domenica ritorni, dai. Cappa. Sì, è così, ti fai anche le sagre, ti diverti. Cavolo, ma tu sei iscritto in qualche club di camperisti? Cappa, i camperisti Torres. Sono di Porta Torres? No, è qui in via Cosa, in via... una provincia di Gran Italia c'è la sede dove andiamo a pagare i cosi, le tessere. Ho capito. Che cosa, di cosa usufruisci essendo iscritto? Tutto, sconti su nave, su aree camper, su ristoranti, un po' di tutto. È buono, là. Molto si paga di tessere. Brecco, brecco, avanti il brecco, taglielo tu Gianni, italiano brecco. Chi ha breccato, avanti. Io non sono da nessuno, Giuseppe. Attenzione, qui Italy, Sardegna, avanti col brecco. Vado a laterale. Ehi Giuseppe, comunque è già una cosa bella. Il camper è bello, dai. Ma io non ne ho più voglia. Mi sto un po'... mi sto muovendo la mandolina, perché sono tutta dolori, da lì mi viene voglia sempre di sdraiarmi, mi metto in testa di andare, di fare, e poi mi drommo. Cappagatta, aspetta che risponda l'amico dal Donbass, Alexandro dal Donbass, avanti, aveva l'accento di coso questo, di tipo Ucraina e compagnia bella. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamate e si sintonizza l'ascolto, brecco, brecco. Avanti! Gava, l'operatore Delta Romeo della città di Sassari che ti super cordializza, avanti collega. Delta Romeo. Mario, ascoltandomi sei. Ehi Mario, già ti ho riconosciuto, là, stavo giocando. K. Cavagava, sono il compagno di Giuseppe, non so se tu lo senti. Giuseppe, lo senti a Mario? Sì, l'ho tirato fuori, però passo, passo, passo. Tieni presente che io sono in condizioni precarie. Scappa, Mario, tu lo senti a Giuseppe? Buona notte, mi ascolto te. Avremo una qualche porta stasera, 9:10. No, mi dispiace, Giuseppe non lo sento. Comunque, saluti da parte mia, qua di Ponte. E purtroppo non lo sento. QRM, poi, vabbè, sicuramente non arriva molto forte. Bene, Gianni, dimmi un po', come mi ascolti stasera? Mi senti bene, male? Com'è la situazione? Ma giusto per sapere, perché ogni tanto io qua, sai, mi parto un po' la situazione, vai. No, stavo per dirti, non sembri fuori frequenza, Mario. Sembri fuori frequenza. Quasi in banda laterale. Addirittura, e la miseria. Non lo so, ma qui è una roba vecchia, quindi può essere di tutto, assolutamente. Ti sei spostato forse, guarda se è toccato qualche cosa, perché se mi fugi ho difficoltà a capire cosa dici. Anch'io. A me mi risulta tutto ok qua, ma evidentemente sì, è probabile che ci sia qualcosa che non funziona. Ma è strano, guarda, allucinante. Non ne va bene uno, caspita. Vabbè, senti, io niente, rimango in ascolto, dai, perché voglio vedere cosa è successo qua, se mi dici così. Ma è molto fuori frequenza secondo te? Non è chiara la radio, Mario, come dite, la radio che non è chiara. Rimane tipo satura così, capito? Guarda, sono passato, ho messo il processore, come va? Fuori. Ancora fuori? Allora vabbè, dai. Per dire una sistemata. Continuate pure questo, dai. Grazie mille, Gianni. Se riusciamo ti tiriamo fuori, ma non c'è problema, Giovanni. Non è altro a panicchi. Però, ciao, devo staccare, non ce la posso fare adesso, guarda, anche perché così non è che ho l'intenzione poi di stare molto, sinceramente. Però no, volevo vedere un attimino qui come è impostata la cosa, perché un po' mi dispiace di uscire in questo modo qua. È strano, molto, molto, molto, molto strano. Perché comunque, sì, vabbè. Non vedo niente di strano, però evidentemente qualcosa c'è, se mi dici così, evidentemente qualcosa non funziona, dai. Saluta Giuseppe, saluta anche a te, dai, rimani in QRX e vedo di sistemare la cosa qua. A te di nuovo, Gianni. Adesso sei uscito meglio, ma non è che c'è il microfono troppo vicino alla bocca, no? Prova a allontanarti. Guarda che io ho passato solamente il mic gain, tutto lì. Adesso vai bene, adesso ti capisco bene. Quindi com'è la modulazione? 5? Non lo so, perché, allora, guarda, io ti dico, dimmi la differenza, perché adesso sono praticamente a un po' più di un quarto. Se io la metto così come prima, c'è differenza? No, adesso sembra che vada meglio, dai. Se vuoi provare in FM, proviamo in FM se ti ascoltiamo ancora meglio. E in tutto caso in FM, sì che ce l'ha. Ma prova, vediamo un attimo. Ce l'ha? Giuseppe, vai in FM. No, adesso sono in FM, ho girato. FM va troppo bene, guarda, ti ascolto benissimo, con la pelle che ho fatto, con la FM sicuramente le bande laterali. Io ti sto arrivando bene. benissimo, Giuseppe, era il microfono più vicino. Vai, come una telefonata, qua in FM, va. Io non capisco perché non userò questa la frequenza. In Francia, in Germania, usano tutti la FM. In America no, in America ci sono apparecchi che hanno AM, ma la terra le FM non hanno. Come lui, come lo chiudi Giuseppe, lui se c'ha M in banda laterale, in FM non ce l'ha. Adesso va bene, sì. Mario, adesso ti ascolto veramente bene. Che apparecchio stai usando? Qualche apparecchio radioamatoriale? Ma come mai? 4,50 dovrebbe andare bene. Conosco il 450, però ho sentito gente che è il 450 che esce bene in AM. Complicate quello lì, come apparecchio, rimane più complicato del 440.